Roberto Fabris. Oh, bentornati sempre qui sulle frequenze di Blu Radio e precisamente sempre con House Made. Iniziamo subito con ritmi molto house questo venerdì. Infatti il primo disco è di Mason che si chiama Exceder. Alzate il volume come vi consiglio sempre, perché questa sera sarà molto, diciamo, più portata verso l'EDM, ma comunque sarà sempre una buona musica. Con tante nuove uscite, specialmente è uscito il 4 novembre, quindi martedì è uscito l'album di Calvin Harris con tante nuove produzioni. Il mondo della musica house adesso sta aspettando anche l'uscita dell'album di David Guetta in programma per il 24 novembre. Intanto andiamo a sentirci questo primo disco, perché avremo modo di, durante tutta la puntata, di sfogliare un po' l'album di Calvin Harris. Iniziamo subito allora dunque con Mason e questo è Exceder, precisamente su Blu Radio, o meglio ancora House Made. Questa era Mason con Exceder qui su Housemaid. Io vi ricordo che se volete o se perdete per caso una puntata potrete riascoltarci in streaming, o meglio in podcast, sul sito www.bluradio.it alla sezione programmi, e il programma è Housemaid. Prossimo disco è in arrivo, Tom Stars con Freaks. Questo dall'EP della Soshumi Records. Restate sempre qui con noi, Housemaid. 'Housemaid', e ora in arrivo un altro pioniere della musica elettronica mondiale. È in arrivo Calvin Harris con il suo singolo Open Wide. Alzate il volume, eh? Oh God! E state sempre qui con noi, questa è Housemaid. Looking at your last text, damn, did you even really mean it? Did you even look through it? Did you even read it? What? I've been breaking up with girls since I was 15. It's the only thing that hasn't got easier. Whoa. A rubber is the only thing that ever came between us. Goddamn, now look at everything in between us. I mean, I'm saying I got more liquor, more ladies, more Whoa. Drugs and no cases, with jobs and no babies. I hope no phone's taping. If so, you gon' hate me. When you see me standing on the couch, turning clubs into houses, water to champagne fountains, turn flat chests into mountains. And ooh, I love that ass, but I hate that. that fucking outfit. I'm taking off her blouses while she taking off my trousers. That's just a couple more problems to add to the couple's counseling. Oh, now open that shit wide, let me see how big your mouth is. Till I OD, I'm the newest version of the old me. All my exes are old me, wishing they could exit old me. I'm on the edge and I'm hanging all off. On the ledge and we dangling off. And if I let go, I won't fall off. If we said it, where did they? Don't call off. Bartender, I call the shots. We call for shots, y'all call the cops. Sometimes drinks speak louder than words do. Body language speaks louder than verbal. And we standing on the couches, turning clubs into houses. Water the champagne fountains, turn flat chests in the mountains. And ooh, I love that ass, but I hate that fucking outfit. I'm taking off her blouses while she taking off my trousers. That's just a couple more problems to add to the couple's counseling. Open that shit wide, let me see how big your mouth is. Goes out to, you know who this goes out to. Yeah. Abbiamo preso una piega molto tamarra questa sera. Questo era Calvin Harris con il suo nuovo singolo Open Wide. Andiamo avanti, in arrivo Timmy Trumpet con Freaks, sempre qui su Blu Radio, o meglio ancora, sempre qui con House Made. Tell me where the freaks at. Questa Freaks, noi non molliamo il genere, andiamo sempre su, torniamo meglio sull'EP su Shumi Records. Questa è di un artista italiano chiamato Simon Dejano, precisamente un artista milanese, con Madwill. Questo è Thriller. Lurking in the dark, under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but never take the sound before you make it. Bravi, bravi, Simon Dejano e Madwill con questo Thriller. Questo è il disco molto carino e molto ascoltabile, orecchiabile, ballabile, di tutto. Prossimo disco, Pepper Rush con Fatality. Questa è la edit di Quintino. Restate sempre qui con noi, con Housemaid. Abbiamo ancora un po' di musica da farvi ascoltare. Non lasciate la frequenza e come sempre e come vi dico io, alzate il volume. We'll be right back. complimenti anche a Pepper Rush per questo disco, ma la edit era di Quintino. Suoni simili allo stile Oliver Heldens, quindi a me piace. Prossimo disco è in arrivo, il bootleg di Danik con You. Pensate, sempre qui con noi, sempre in nostra compagnia, sempre con House Made. Bravo Danik, questo brano potete trovarlo in free download sul suo canale SoundCloud, l'ha rilasciato settimana scorsa se non mi ricordo male, e quindi se vi piace andate a scaricarvelo. Ed ora, questo è un altro singolo estratto dall'album di Calvin Harris insieme a Rehab, questo è Burning. Restate sempre qui con noi, con House Made in nostra compagnia, perché tutte queste sono nuove produzioni. Non lasciate la frequenza. Restate qua, anzi, alzate il volume. for all the bouncers. Questo era Calvin Harris insieme a Rehab con Burning. Gran bel disco, soprattutto anche se un po' tamarro, ma comunque carino, dai. Passiamo al prossimo, che è un remix di Thomas Newsome con Our Story, l'originale di Mako. Restate sempre qua, con noi e con Blue Radio. Housemaid. Take a look past our innocence. Take a step back to yesterday. When life would move slower, we would never grow up. All we knew that love was for when we're older. Anything could happen, secretly imagine. They could never tear us apart, too young to fall. This is we'll be right back. sempre molto pettinato, Thomas Newson con le sue produzioni e i suoi remix, ma vabbè, lui è un artista così che fa molto del molto EDM, molto electro house, ci va giù pesante con sia le produzioni e i remix. Prossimo disco è la Jesse Kills con Thriller. Questa è la seconda parte, l'abbiamo già suonata due o tre dischi fa, ma quella era di Simon Dejano e ora tocca Jesse Kills. Restate sempre qui con noi, con Blu Radio, precisamente con House Made. Io vi rinnovo l'invito a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e a mandarci, suggerirci tutti i dischi che vi vengono in mente. Potranno anche essere messi in programmazione, ovviamente dopo un attentissimo e severissimo ascolto mio. Quindi ragazzi, mandate, che io ascolto e vi rispondo sempre. Restate qui con noi, House Made. It's close to midnight, something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, I see a sight that I almost stopped your heart. You try to scream, but you're addicted, sorry for you make it. You start to freeze, and so it looks you right into me. Bel disco anche questo di Jazz Kills. E ora passiamo al prossimo. Questo è Humid Hot Scan con Superwave. Torniamo ad alzare BPM, ad alzare il livello di tamarraggine, sempre qua, sulle frequenze di Blu Radio e sempre con House Made. mia che tamarro. Purtroppo in questo periodo stanno uscendo tutte queste produzioni, quindi cari ascoltatori, non prendetevela con me, io vi offro quello che offre il mercato, ma è un mercato che in questo periodo scarseggia un po'. Blu Radio, eh? Housemaid. Tamarro, un Methodcan con Super Wave. E ora in arrivo un'altra canzone un po' più tranquilla. Il titolo è Before, l'artista è impronunciabile, si chiama Overst. E quindi non lo so, è scritto O-V-R-S-D. Restateci qui con noi, sempre connessi, alzate il volume di Housemaid. looking for. Bello il disco degli Hovers con Before. E il prossimo mega mashup di Ivan Skaich. Questo è I Found Blackout Supersting. Gli artisti che ha messo dietro sono i Dennis Groove, Axwell, Changes, Nicky Romero. E godetevi questo bel mashupino, dai. Restate sempre qui con noi sulle frequenze di Blu Radio e sempre con House Made. Everybody wanna know why I'm walking around with a big smile on my face. Hey, I'm happy and it shows. Hey, I'm back. Chiudiamo con Rude dei Magic, questo è il remix di Sad qui su Blu Radio. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Say yes, say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Anyway, maybe that. siamo con Zed, questa puntata di venerdì 7 novembre qui su Blu Radio con Housemade. Io vi do appuntamento a domani sera sempre qui sulle frequenze di Blu Radio, mentre questa sera, se vi va di divertirvi, passate alla discoteca Minimal Club di Cassano Magnago. Insieme ai ragazzi del Mida c'è solo da divertirsi e io ve lo consiglio, e quindi se vi va passate da lì. Io vi saluto e vi do appuntamento domani sera sempre qui sulle frequenze di Blu Radio e sempre con Housemade. Da Alberto Fabris è tutto, ciao!